La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Con l'articolo 114 passiamo al titolo quinto della parte seconda. Questo titolo quinto è molto famoso perché tante volte abbiamo ricordato che nel 2001 è stato modificato il titolo quinto. Che cos'è il titolo quinto? È semplicemente una partizione interna della Costituzione, perché nella parte seconda abbiamo sei titoli che riguardano il Parlamento, il Presidente, il Governo, la magistratura e finalmente il quinto sono le autonomie. Tutta questa parte sulle autonomie è stata modificata in maniera profonda nel 2001. È stata la riforma costituzionale più ampia che c'è stata in Italia. Ed è stata la prima volta che in Italia la riforma costituzionale è avvenuta anche grazie all'intervento di un referendum popolare. Ma di questo parleremo più diffusamente quando studieremo con l'articolo 138 le procedure di revisione costituzionale. Con la riforma del 2001 si è cercato di dare maggiore spazio alle autonomie territoriali. Ed ecco che l'articolo 114 ci dice oggi che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Colpisce, stupisce vedere che l'elenco degli enti che costituiscono la Repubblica parta dal basso, cioè parta dall'ente più vicino al cittadino. Perché l'idea del legislatore di riforma costituzionale del 2001 è stata proprio questa, capovolgere l'impostazione dello Stato, non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, per dare quella che i giuristi chiamano più sussidiarietà, cioè più vicinanza della decisione ai cittadini. Il sistema della riforma del 2001 è anche un sistema che è andato verso il federalismo. Ed ecco allora che l'ultimo comma dell'articolo 114 stabilisce oggi che Roma è la capitale della Repubblica. Va ricordato che negli stati federali è normale che sia la Costituzione ad individuare la capitale, in maniera che sia ben chiaro anche in un sistema di federalismo che è stato deciso una volta per tutte con la fonte suprema quale sia la capitale dello Stato. It's all.